Cialtroni nello spazio. L'attimo di approfondimento informatico tecnologico di Radio Onda d'Urto. L'attimo che dura circa 40 minuti ogni mercoledì alle 12.40 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. E avete sentito nel sottofondo Alessandro che si diverte a fare gli scratch con i mixer. Lo e senti solo nostra... Alza la sigla, dai che bella, alza la sigla. Un attimo prolungato. Allora, sono tantissimi gli argomenti che andremo ad affrontare nella puntata di oggi. Innanzitutto, finalmente si riusciremo a intervistare Tatiana Bazzichelli, autrice del libro Networking, la rete come arte, che è stato rilasciato sotto licenza Creative Commons e che è stato poi pubblicato per i tipi della Costa e Nolan. Tatiana, la raggiungeremo tra pochi istanti al microfono, anzi mentre tu continui a fare la scaletta della puntata di oggi, io inizio a comporre il numero. Salve, sono la scaletta. Allora, dopodiché abbiamo, dopo l'intervista abbiamo un po' di news sui costi di carica, la Dell che chiede ai suoi utenti che cosa vuole, che cosa questi sognavano nei loro nuovi computer Dell. Alessandro, hai qualcos'altro da dirci? Vabbè, vediamo quante ce ne stanno. Comunque la conferma dell'abolizione delle ricariche sui telefonini, un'intervista al ministro russo a seguito della denuncia per quel preside russo che aveva utilizzato software piratato, e un aggiornamento sulla vicenda Home Italicus SIA e pubblicazione di immagini, e poi un paio di player un po' sofisticati per video, immagini, eccetera. Naturalmente open source. Bene, partiamo subito con... Abbiamo l'intervista? Sì. Ok, perfetto, allora niente. Allora, Alessandro dovrebbe aver premuto tutti i tasti giusti e dovremmo essere in collegamento con Tatiana Bazzichelli. Ci sei, Tatiana? Sì, eccomi qua, buongiorno. Allora, buongiorno anche a te, Tatiana. Siamo in collegamento con te per parlare di Networking, la rete come arte, il tuo libro che hai pubblicato, come tutti i libri che noi presentiamo in questa trasmissione che si occupa di informatica, ma non solo, anche di licenze libere, di un po' arte in generale, è stato pubblicato sotto licenza Creative Commons, ma anche pubblicato come si deve per i libri, per i tipi della Costa e Nolan, lo scorso autunno, se non sbaglio. Allora, il tuo libro Networking, la rete come arte, parla di arte in rete, della net art italiana. Devo dire che nel leggerlo mi ha stupito molto il modo che hai avuto di collegare la net art con i movimenti sociali italiani, soprattutto quelli che si stavano delineando all'inizio, nella fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, i centri sociali. E secondo te come mai c'è stata questa specificità della net art italiana nel modo in cui si è collegata con i movimenti sociali? Ok, allora sì, prima di tutto volevo dire che siccome poi certo, questa cosa uno se la dimentica sempre, visto che il libro è anche scaricabile online, è vero, posso dire che è scaricabile dal sito www.networkingart.eu, che sta per Europa. E quindi niente, appunto dico sin dal principio che se la gente lo vuole scaricare lo può trovare là, poi ci sono quelli amanti dei fetici e possono trovarlo anche in libreria, però insomma l'idea è stata di dare la possibilità alle persone di avere una duplice scelta. E tornando appunto alla domanda che mi hai fatto, infatti cioè, devo dire che appunto questo libro si chiama Networking, la rete come arte, per un motivo. Infatti non l'ho chiamato net art proprio perché non parlo soltanto di net art. E infatti innanzitutto bisogna dire che se noi parliamo di net art come un movimento specifico con net.art, è più che altro una cosa che si è sviluppata a livello internazionale dalla metà degli anni 90 fino agli anni 2000, mentre net art semmai è un discorso più aperto che adesso abbraccia anche diversi altri fenomeni. Però a me quello che interessava fare era scollegare il discorso dell'arte specificatamente dalla rete, e quindi io parlo di reti di relazione, di reti fra individui, che è anche una componente molto personale, molto soggettiva, piuttosto che soltanto del mezzo tecnologico. Quindi per me il discorso di networking è ovviamente, ha a che fare ovviamente con le tecnologie, perché da questo è supportato, ma non è unicamente circoscritto nell'ambito tecnologico. Infatti io alla fine chiamo anche tutte queste pratiche di cui parlo arte, e soprattutto nella mia idea di networking c'è tutto un percorso, soprattutto italiano, che va dagli anni 80, ma se vogliamo anche la fine degli anni 70, se pensiamo al Radio Alice, fino ai giorni nostri, e che soprattutto presuppone un utilizzo dei media come un canale di partecipazione libero. E quindi ha a che fare ovviamente con l'uso dei media, ma non soltanto la rete, cioè io parlo anche del video, per esempio, trasversalmente anche della radio, pure se non parlo specificatamente della radio perché avrei dovuto scrivere un libro a parte, però insomma comunque l'idea è quella di parlare di piattaforme di connessione fra le varie persone che si sono instaurate dagli anni 80 fino ad oggi in Italia, e con un occhio particolare proprio anche alle reti di movimento, proprio perché siccome io parlo di canali di comunicazione aperti, liberi, dove l'uso della tecnologia è visto anche come una forma di autoformazione, di condivisione delle risorse e dei saperi, non potevo prescindere dal fatto di parlare dei movimenti, che è comunque stato un bacino fondamentale in Italia. E quindi per esempio mi ricollego alla logica punk del do it yourself, che poi ha animato tante pratiche italiane che hanno toccato anche la formazione degli hack meeting, di tanti server italiani indipendenti, e se vogliamo negli anni 80 anche la formazione delle BBS, no? Quindi in tutto il libro in realtà c'è un discorso propriamente artistico, perché comunque è quello di cui mi sono sempre occupata, però anche con un occhio particolare a quello che è avvenuto proprio nelle dinamiche di relazione, di movimento italiane, che comunque hanno contribuito a formare un immaginario molto forte, e che rispetto agli altri paesi esteri fa dell'Italia anche un unicum particolare. Ecco, proprio su questo volevo chiederti, cioè c'è stato questo rapporto tra l'autogestione e la net art, che è sicuramente ben spiegato nel tuo libro, però forse sarebbe interessante cercare di capire come mai l'Italia ha una scena abbastanza importante da questo punto, però sembra sempre che sia marginale nel resto del mondo, nonostante alcuni progetti, i più famosi come Luther Blissett o altri collettivi di arte in rete siano andati alla ribalta del mondo, però forse c'è una sensazione di che resti un po' in tono minore, non so se anche tu sei... No, beh, diciamo che ovviamente se adesso io vivo a Berlino, quindi magari l'ha detto, questo mi ha aiutato anche un po' a vedere le cose un pochino con un occhio distaccato, pure se poi cioè va precisato che questo libro nasce anche da tutta una serie di relazioni che io ho avuto prima a Roma all'interno del gruppo di Havana.net, poi anche a Firenze con Strano Network, comunque Isole nella Rete, di cui tuttora il progetto che porta avanti fa parte. Quindi insomma devo dire che è un libro per me anche molto personale, pure se ovviamente cioè specifico c'è una mia visione personale, cioè non intendevo assolutamente rappresentare nessuno con questo libro, soltanto parlare di un mio percorso che poi va a che fare direttamente con determinate dinamiche artistiche che sono quelle di cui mi sono sempre occupata. Però cioè, è chiaro che parlando dell'Italia non si può prescindere di parlare di un certo tipo di relazioni che sono state fortissime e fondamentali, e che quindi ti dico, vivendo a Berlino, proprio stando qua mi sono resa conto che quando io per esempio parlavo di hacktivism, qua hanno un'idea completamente diversa, cioè nel senso la sperimentazione con la tecnologia, l'hacking, per esempio a Berlino è fortemente apolitica, e anche quando si parla del Chaos Computer Club, che un tempo ha fatto storia con Vau Holland, adesso loro non hanno più questa impostazione qui. Invece l'idea di unire, se vogliamo, attivismo tecnologico, politico, artistico è una cosa fondamentale in Italia, e che ha creato anche tutta una serie di progetti che all'estero sono visti con molto interesse. E quindi la mia idea è stata, cerchiamo un po' di raccontare tutta una serie di dinamiche che ho vissuto anch'io personalmente, soprattutto negli anni 90, e poi che ho cercato di raccontare insomma per la fase precedente che non ho vissuto. E come tu dici, effettivamente esiste un gap, perché mi sono resa conto stando qua che pochissime persone conoscevano tutti questi progetti di cui parlavo. Per esempio, alcuni erano molto conosciuti come Luther Blissett, perché ha avuto ovviamente anche una componente internazionale molto forte, o anche le opere di Lizzaruno.org sono anche molto conosciute perché loro si sono mossi molto all'estero, oppure degli Epidemico, di Jaromil. Però ci sono tante situazioni italiane che comunque per noi hanno un peso molto forte, che invece all'estero non sono minimamente conosciute. Secondo me questo non significa che le cose sono meno valide, ma che semmai spesso si utilizza un linguaggio che è l'italiano, che all'estero non viene cioè non è conosciuto da tutti. E per esempio, se tu ti riguardi tutti gli archivi di NetTime, che è comunque importantissima per capire una certa storia della NetArt, effettivamente sono pochissime le persone italiane che scrivono, e molti dei nostri siti sono quasi tutti in italiano. Quindi secondo me la componente linguistica è cioè uno scoglio che andrebbe superato. Infatti anche per questo, siccome il mio libro è in italiano, adesso sto cercando di tradurlo, e quindi probabilmente per l'estate sarà possibile trovare una traduzione in tedesco, e adesso sto provando a farlo tradurre anche in inglese, perché poi insomma adesso l'abbiamo appena presentato a Transmediale insieme a Jaromil e a Gaia Novati. E tante persone ci hanno detto: ah, ma tutte queste cose ci interessano molto, perché comunque abbiamo fatto una panoramica un po' generale, insomma, di vari progetti che vanno da Fluxus fino alla Mail Art, Luther Blissett, Wu Ming, poi abbiamo raccontato come sono nate le BBS, fino ad arrivare appunto ai giorni nostri, con tutte le varie sperimentazioni, dagli hack meeting fino alle opere, diciamo, di net art attuali, da Molle Industria, 01.org, eccetera, eccetera. Però appunto, insomma, tutti erano molto interessati a queste cose qua, perché effettivamente la gente ne sa poco. E quindi, insomma, nel mio piccolo spero un pochino di contribuire a diffondere una cosa importante, che tra l'altro credo che già sta cominciando a essere diffusa attraverso i Transhack Meeting internazionali, in cui insomma finalmente la gente si incontra. Però proprio l'idea di scriverla, cioè, secondo me è una cosa che mancava, per questo insomma mi sono messa lì e in svariati mesi ho partorito questa cosa qua. Poi la gente giudicherà o meno se ci si ritrova, però insomma finora le persone che l'hanno letto mi hanno detto che ci sono ritrovate, ecco, anche perché insomma scrivendolo ho cercato veramente di metterci anche molto di quello che ho vissuto. E quindi ti assicuro che anche me, leggendolo un po', la storia, il modo di intersecarsi con la storia non solo dell'informatica, la storia dei movimenti, la storia della net art, di cui io non sono sicuramente un profondo conoscitore, mi è interessato parecchio, devo dire. Senti, volevo chiederti se è possibile per te sintetizzare brevemente quali sono i limiti e quali sono invece i difetti di questo modello di produzione culturale, secondo te, ma proprio così in breve. Ma quale produzione culturale? Sì, scusa, il modello di produzione di questo modello di produzione artistica in rete. Ah, beh, sicuramente le cose, gli aspetti positivi sono che se si parla appunto di networking si parla di reti di relazioni interpersonali, quindi parliamo di opere che sono piattaforme aperte in cui tutti possono partecipare liberamente, e per questo appunto c'è una storia che va da Fluxus alla Mail Art fino ai giorni nostri, in cui diciamo l'artista non è più artista ma diventa networker, creatore di contesti di scambio, e il cosiddetto pubblico diventa coautore, e quindi l'idea di partecipare tutti attivamente nella creazione di un processo, cioè non si crea più un oggetto artistico ma si crea un qualcosa in divenire dove tutti possono interagire. E quindi secondo me uno degli aspetti positivi è proprio questa grossa apertura e libertà che un certo tipo di piattaforme ti permettono di avere, e soprattutto anche l'idea che attraverso questo puoi riuscire a capire un po' quali sono i retroscena del funzionamento dei media, no? Cioè capire che in fondo la tecnologia può essere smontata e rimontata se hai delle idee da portarvi dentro che sono tue, insomma. E quindi effettivamente anche per questo l'idea del punk, del do it yourself, è molto presente, proprio perché comunque c'è una piattaforma flessibile che tutti possono in realtà utilizzare, però diciamo con consapevolezza. Anche questo è importante, perché poi c'è tutto un discorso anche di criticità del media che è fondamentale, insomma. E diciamo i punti negativi, ma insomma sicuramente sono anche il fatto che, però non so se siano effettivamente punti negativi, perché cioè obiettivamente tutta una serie di azioni di cui il libro parla sono cose estemporanee che magari sono avvenute a un certo momento, si sono protratte per alcune anni, altri mesi, e poi tendono un po' a dissolvere nel nulla, e è anche difficile riuscire a seguirne le tracce, perché molto spesso le cose in rete non ci sono più, anche i mezzi hardware e software cambiano, per cui è difficile veramente appunto creare una sorta di archivio. Però secondo me tutto questo sta anche un po' nel gioco della cosa, no? Cioè quando per esempio leggevamo un libro Taz di Akinbay, si leggeva effettivamente queste zone temporaneamente autonome nascono, la gente cerca di creare lì degli interstizi creativi, e però poi muoiono e rinascono da altre parti. Quindi effettivamente questo può essere un lato debole, perché non ci si radica mai da nessuna parte veramente, però secondo me è anche la propria forza della cosa, perché obiettivamente in questo modo si dà vita a processi diffusi che quindi possono veramente incidere anche nella creazione di un immaginario, o comunque insomma anche nel porre degli interrogativi critici sia dal punto di vista politico che artistico che culturale. Quindi www.networkingart.eu per leggere e scaricare il libro di Tatiana Bazzichelli, oppure ordinarlo presso i tipi della Costa e Nolan. Tatiana, noi ti ringraziamo per aver presentato con noi il tuo libro Networking, la rete come arte, speriamo di sentirci presto, insomma. Vi ringrazio allora e attendo commenti via mail, per chi ha il coraggio di leggerselo tutto. Certo, va bene, a presto, ciao Tatiana. Ciao, ciao. È una lunga intervista, però sicuramente alcune delle cose interessanti, almeno mi è piaciuto molto leggere questo libro e cercare di capire anche dinamiche di movimento, non solo di arte che si muovevano negli ultimi 25-30 anni. Sì, diciamo che è un buon compendio di quello che è stato un po' il movimento, la parte più creativa del movimento di quegli anni e anche di questi, nel senso che alcune cose sono molto recenti. Allora, passiamo alle news di questa settimana. Ma io direi facciamo uno stack musicale prima. Allora andiamo ad ascoltarti un gruppo italiano di indie rock. Ricordano tantissimo gli After Hours. Si chiamano Eugenie. E questo è il pezzo d'apertura, Illuminarsi. We'll be right back. con i Chemical Brothers, che è il gruppo di prima, scusami, come si chiamavano, Alessandro? Eugenie. Eugenie, ok, perfetto. Penso che si legga Eugenie. Comunque se lo cercate su Yamaha, cercate Eugenie. No, sono italiani, però il titolo è quello che è. Andiamo a dare un po' di aggiornamenti adesso, allora, rispetto a quello che succede anche nel campo non solo dell'arte, come abbiamo fatto fino adesso, non solo dei centri sociali, come abbiamo fatto fino adesso, ma anche nel campo dell'informatica. Esatto, perché prendiamo spunto dalle ultime dichiarazioni di Steve Ballmer, il CEO della Microsoft. La faccia di Alessandro, che è abbastanza... Che non approva. Non mi vuoi bene, Alessandro? Marco, allora, sinteticamente, allora, Windows Vista, le vendite insomma non stanno andando tanto benino. No, di chi stai facendo queste dichiarazioni? Steve Ballmer ha dichiarato, Windows Vista, insomma, le stime di vendita di Windows Vista non erano, erano forse un attimino sovrastimate. Insomma, sta vendendo meno di quanto stava vendendo Windows XP e probabilmente cominciano un attimino a preoccuparsi sul fatto che questo loro nuovo prodotto non stia andando poi tanto bene. Ma Steve Ballmer ha la soluzione, perché infatti dentro Windows Vista hanno integrato un sacco di nuove, nuovissime tecnologie che permetteranno appunto di eliminare il problema della pirateria. Infatti in tutti i mercati, nei paesi emergenti tipo Cina, India, Brasile e Russia, le percentuali di software contraffatto sono tipo dell'86% in Cina, 72% in India, 64% in Brasile, 83% in Russia. Insomma, di software contraffatto la Microsoft ci perde un sacco di soldi, e quindi in queste nuove tecnologie inserite dentro Windows Vista, in particolare il Windows Genuine Advantage, permetteranno di inibire il funzionamento di alcune parti del sistema o di totale del sistema, appunto per le versioni che, non, che si riveleranno non piratate. Questo problema è già stato, questo software è già stato testato da un discreto periodo anche nelle installazioni di Windows XP, e ha dato un sacco di problemi con intere ditte che si trovavano ad aver acquistato delle licenze vere di Windows Vista e che invece questo software diceva no, tutte le licenze sono fasulle, sono farlocche, insomma c'è un po' di problemini. Però insomma prendiamo la nota del fatto che comunque le vendite non stanno andando bene come prevedevano. L'altra notizia che farà arrabbiare Alessandro è quella che in un'altra intervista appunto Steve Ballmer ha dichiarato che l'accordo con Nova, il fatto per un accordo di interscambio sulla questione dei brevetti, la Microsoft aveva pagato un sacco di soldi alla Novell, la Novell riconosceva i brevetti Microsoft e c'era ancora un po' di buio su questa cosa, c'è ancora il buio, però insomma si sta delineando che probabilmente la Microsoft vuole andare appunto a tirar su un po' di soldi da questo accordo, andando a convincere le altre distribuzioni Linux a pagare per dei diritti che sulla carta dovrebbe avere Microsoft su alcuni brevetti, non si sa ancora bene quali, insomma ancora tutto un po' fumoso, però insomma lui in una intervista dice che la cosa fondamentale dell'accordo con Nover era appunto quello di riuscire a tirar su soldi dalla questione dei brevetti. Un aggiornamento sulla questione di Homo Italicus, la si è fatto avere alcune risposte riguardo la questione appunto dei quadri pubblicati sul sito Homo Laicus, sulla questione di cui avevamo parlato le scorse settimane, e due sono le tesi principali della SIAE. La prima è che il sito in realtà è commerciale perché ha dei banner e degli advice che sono quelle micro pubblicità, vabbè, secondo i punti di vista chiaramente, che sono in testa al sito oppure a lato, tipiche dei blog di Google oppure di Spot Blog, insomma tutte quelle, in generale tutti quei siti che hanno un ospite gratuito, quindi che vengono ospitati gratuitamente da qualche azienda e che appunto vengono ospitati perché c'è la pubblicità intorno, insomma, e che magari rendono quei 2-3 euro al mese Beh, la resa di questi è tutta da dimostrare. Chiaramente la resa all'utente che pubblica il blog o chissà che cosa è chiaramente minima. La resa invece dei portali che li ospitano è una grande incognita, è un grande mistero. Quindi questa era una delle prime obiezioni. Quindi la promozione diceva: non si tratta di un sito gratuito, o meglio, è un sito gratuito ma comunque commerciale, e facendo il paragone con Mediaset e con altri eventi, ad esempio concerti che vengono eseguiti sponsorizzati, che ne so, da vari marchi, e che non sono a pagamento, insomma. Questa era la prima. La seconda è che in ogni caso, al di là di tutto, non è possibile utilizzare software che, insomma, contenuti che appartengono ai detentori dei diritti, quindi autori o eredi o fondazioni che hanno ereditato questi diritti, perché comunque, indipendentemente dal sito commerciale o meno, le royalties sono da pagare. E ultima cosa, non è possibile nemmeno modificarli, quindi la rielaborazione anche parziale delle immagini non è assolutamente prevista, perché il diritto d'autore, in una delle sue voci, sancisce appunto che l'opera non è assolutamente modificabile a meno di un'autorizzazione esplicita da parte dell'autore. A questo c'è stato un commento da parte dell'ideatore di Homo Laicus, che ricordiamo è stato multato di 4.900 euro, di una multa che lui ha intenzione di pagare. E vabbè, le repliche in realtà non sono particolarmente solide, nel senso che chiaramente non è un esperto di diritto d'autore, era uno che era più che altro esperto di arte, quindi le sue repliche sono un po' deboli in confronto a quelle delle SIAE. Chiaramente c'è una notevole differenza e una sproporzione da parte della SIAE, innanzitutto nel paragonare il singolo rispetto alla multinazionale che sponsorizza un evento, piuttosto che a uno dei due monopolisti della televisione italiana, che offre sì teoricamente la televisione gratuitamente, ma con un'incisività degli introiti pubblicitari nettamente superiore. Assolutamente imparagonabile per ordine di grandezza. E la seconda replica che lui non fa, e che invece sarebbe assolutamente da fare alla SIAE, è che il problema è proprio il diritto d'autore, come sostiene tutto il movimento open source inteso in senso lato, perché è troppo restrittivo rispetto alle problematiche che ci sono oggi all'interno della produzione di contenuti. Ad esempio, la rielaborazione, è vero che se un autore non rilascia l'autorizzazione per modificare le sue opere, chiaramente quando è in vita, perché anche lì sarebbe da discutere quanto lecito è lasciare i diritti d'autore a una fondazione eterna. No, comunque è lecito da parte di un autore, ma è anche lecito prevedere che gli autori che lo ritengono necessario diano la loro opera disponibile al riutilizzo e alla modifica senza la necessità di una richiesta formale a posteriori, e questo fanno le licenze Creative Commons.